Cena di lavoro con colleghi con i quali non hai molta confidenza. Pranzo di matrimonio in un tavolo in cui non conosci veramente nessuno. Cena in pizzeria per il compleanno di un amico, ma ti hanno messo seduto vicino all'amico dell'amico dell'amico che tu non conosci assolutamente. Sono situazioni in cui a volte non si sa proprio come iniziare la conversazione, per cui possono essere imbarazzanti. Anzi, forse dipende, se sei una persona estroversa potresti addirittura trarre forza da queste situazioni perché ti piace conoscere persone nuove, trovarti in situazioni stimolanti. Se invece sei una persona introversa, potresti essere un po' in difficoltà e anzi a volte potresti non vedere l'ora di scappare, di toglierti da situazioni di questo genere. O forse, come la maggior parte delle persone, sei a metà strada tra l'estroversione e l'introversione, per cui in certi momenti potresti ricavare piacere da queste situazioni e in altri potresti invece sentirti un po' in difficoltà. In ogni caso, credo che avere a disposizione qualche attrezzo pratico per attaccare bottone possa essere utile per tutti. In questo video voglio proportene 10. Primo, quando ti presenti con una persona nuova, cerca di ricordarti subito il suo nome. Può essere un buon metodo quello di ripetere dentro di te per 5 volte il suo nome, o magari dirlo subito ad alta voce, del tipo: "Ciao Gustavo, piacere di conoscerti". In altri due video ti ho parlato dell'importanza del nome e di alcuni consigli pratici per essere più pronto a ricordartelo. Vatteli a vedere se vuoi, te li lascio in descrizione. Come seconda cosa ti direi di stare attento agli argomenti che è meglio evitare quando si ha a che fare con persone nuove: religione, politica, denaro, rapporti familiari, rapporti sentimentali e situazioni di salute. Il motivo per cui è bene evitare questi argomenti è molto semplice e anche molto profondo, perché sono argomenti in cui è presente una forte carica emotiva. Sono argomenti molto delicati, molto personali, molto intimi, per cui può essere difficile affrontarli con persone con le quali non c'è una confidenza molto profonda. Evita anche di parlare di situazioni difficili della tua vita in contesti leggeri ed informali, potrebbero creare inutili imbarazzi. Un'altra cosa da evitare sono i commenti negativi e il sarcasmo. Potrebbero portare un gelo spiacevole nella conversazione e creare imbarazzo. Ed eccoci finalmente ad alcuni consigli pratici per attaccare bottone. Innanzitutto cerca di interessarti profondamente e sinceramente alla persona che hai davanti. Alle persone piace molto parlare di sé, raccontare qualcosa della propria vita e dei propri interessi, se non altro perché è un argomento che conoscono bene. Ad esempio, puoi chiedere alla persona da dove viene, dove è cresciuta, specialmente se magari dall'accento ti accorgi che può essere di un'altra città o di un'altra zona, ma anche se fosse della tua città, magari può essere di un altro quartiere e potrebbe raccontarti qualcosa riguardo a questo, o magari anche del tuo quartiere, della tua via. Allora potrebbe essere ancora più semplice parlare magari di qualche ricordo della vostra infanzia che vi accomuna. Quinto, chiedi all'altra persona qualcosa che riguardi i suoi hobby. Sì, può essere utile parlare di hobby piuttosto che di lavoro, perché a volte magari si vive una situazione lavorativa difficile della quale non è piacevole parlare. O se invece la persona vedi che parla anche volentieri del suo lavoro, puoi senz'altro chiederle qualcosa anche riguardo a questo. Tornando agli hobby, ecco qualche argomento sul quale sarà facile far nascere una conversazione piacevole. Pratichi o segui sport? Ti piace leggere? Qual è l'ultimo libro che hai letto? Che cosa fai nel tempo libero? Qual è la tua musica preferita? A tutti piace la musica. E il genere di film preferito? E la tua serie TV preferita? Se tra le risposte ti accorgerai che ci sarà qualcosa che vi accomuna, diventerà ancora più semplice proseguire il discorso. Occhio soltanto a non esagerare, per non ritrovarti a parlare per 2 ore e mezza con la stessa persona di Breaking Bad oppure di Tiro con l'arco. Un altro argomento molto interessante di cui parlare sono i viaggi, perché ai viaggi associamo spesso ricordi ed emozioni molto positive. Ci sono persone che amano viaggiare molto, ma anche se si è fatto soltanto un viaggio, chiunque di noi potrà avere qualche episodio piacevole, qualche aneddoto, magari anche qualche disavventura superata in modo simpatico di cui parlare. E se qualcuno non ha mai potuto viaggiare, beh, gli puoi sempre chiedere se avesse la possibilità di cambiare città oppure di fare un bel viaggio, dove gli piacerebbe andare, per poi proseguire chiedendogli il motivo di questa risposta. Anche il cibo è un argomento molto semplice e leggero con il quale iniziare una conversazione, stando soltanto attenti di non entrare in merito a diete particolari, perché anche in questo caso si potrebbero creare inutili imbarazzi. E qui le domande si sprecano. Qual è il tuo piatto preferito? La cosa che cucini più volentieri? Il locale dove ti sei trovato meglio? Il dolce di cui sei più goloso? 8. Può essere simpatico cercare di scoprire il motivo per cui siete entrambi in quel posto. Chi conosci delle persone presenti? Come sei stato coinvolto in questo evento? Come hai conosciuto il padrone di casa o la persona che ti ha invitato? Chiedi anche se c'è qualche storia divertente o di quando si sono conosciuti. A tutti piace raccontare i bei ricordi passati. E fai lo stesso anche tu, se hai qualche episodio piacevole da condividere relativo alla tua conoscenza con la persona che conoscete in comune. 9. Quando è il tuo turno di parlare, cerca di non essere troppo lungo, cerca di non monopolizzare troppo il discorso. Credo che tutti noi abbiamo presente qualche persona con la quale preferiremmo non trovarci da soli in una stanza, perché quando inizia a parlare proprio poi non la finisce più. Insomma, anche in questo caso vale la solita regola d'oro: non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. 10. Non avere paura dei silenzi, non cercare di riempire ogni momento di vuoto, di silenzio che ci può essere, perché anche il silenzio limitato magari può aiutare però a pensare, a riflettere e a far nascere poi un'altra domanda, un altro argomento oppure qualcosa per approfondire il discorso già iniziato. Se invece sei una persona che non ha alcuna difficoltà ad attaccare bottone, allora condividi nei commenti quali sono le tue tecniche per parlare con persone che non conoscevi. Condividi anche questo video e lascia un mi piace. Iscriviti al canale attivando la campanella e se vuoi vai anche su comunicaresorrisodidio.it nella sezione iscriviti. Lascia il tuo indirizzo email per essere aggiornato su tutte le novità del canale.